America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Hillary Clinton ce l'ha fatta, ha raggiunto nella notte di ieri il numero necessario di delegati per assicurarsi la nomination del Partito Democratico. I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. Beh, devo dire che comunque andranno le cose a novembre. A questo punto Hillary ha già fatto storia, è la prima donna a vincere la nomination del suo partito e lo ha fatto prima del voto di oggi in California o in New Jersey o in Montana o in New Mexico, che doveva essere decisivo, voto che doveva essere decisivo per la sua partita contro Bernie Sanders. Lo ha fatto prima di questo super martedì, l'ultimo di queste incredibili primarie per la Casa Bianca del 2016. Bene, si doveva parlare molto della decisione di Janet Yellen, della Federal Reserve, che aveva deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Beh, e invece parliamo della politica americana, parliamo comunque di quello che succederà oggi in California, perché il voto resta importante. L'unica incertezza per Hillary potrebbe esserci se per caso in California Bernie Sanders dovesse fare molto bene o addirittura dovesse vincere la partita californiana, che direi sul piano simbolico rappresenta un premio molto importante per questa corsa elettorale. Ma ormai comunque vadano le cose qui in California, per Hillary la partita è chiusa. Devo dire che la notizia è arrivata tarda notte di ieri, è arrivata dalla AP, l'Associated Press, che aveva effettuato un ultimissimo conteggio dei superdelegati, interrogando gli incerti fra i superdelegati che ancora non si erano espressi sulla loro posizione di voto. Ed è stato solo a quel punto che è emerso che un numero sufficiente, i circa 50 che le mancavano, avevano deciso di schierarsi con lei, con Hillary, appunto alla convention di Cleveland che si terrà alla fine di luglio. Dopo il giro di telefonate, ecco che l'annuncio è arrivato. Hillary superava la fatidica soglia di quota 2.383 delegati. My overall assessment is that the current stance of monetary policy is generally appropriate. Bene, vi ho accennato all'inizio della trasmissione della decisione di Janet Yellen di mantenere i tassi di interesse invariati in America per via delle sue preoccupazioni, diciamo per l'andamento dell'occupazione. Venerdì c'è stato un dato negativo, ne abbiamo parlato, soltanto 38.000 occupati nel mese di maggio contro i 170.000 attesi. Questo significa, dice la Yellen, che non possiamo permetterci di alzare i tassi di interesse, perché nel momento in cui l'economia ci dà un segnale di debolezza, noi dobbiamo continuare a sostenere l'economia. La decisione, dice, è soltanto rimandata, vediamo, sarà rimandata a luglio, non credo, forse a questo punto sarà rimandata a settembre. I mercati naturalmente hanno reagito bene. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come vi dicevo, per Hillary c'è la storia, c'è la vincita della nomination democratica, ma resta l'incertezza del risultato in California. Secondo me ce la farà, secondo me vincerà anche la California. Se non dovesse farcela contro Bernie Sanders, come dire, la festa sarebbe un pochino guastata e dunque avremmo, come si dice in America, i blues. E pensando alla California mi viene in mente una canzone straordinaria di Roy Orbison, appunto California Blue. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!